Carissimi amici e amiche, buonasera a tutti, santa serata, meglio a tutti, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Tenera Amate e al suo bellissimo libro. Questa dovrebbe essere, dico sempre dovrebbe perché ho controllato, ma ogni tanto saltano i numeri, quindi dovrebbe essere la puntata numero 29. In ogni caso stiamo proprio all'interno del capitolo 29 che abbiamo iniziato la volta scorsa e che oggi, se Dio vuole, continueremo. La volta scorsa abbiamo parlato, chi ha seguito ricorderà, dell'amore universale e quindi delle varie delizie che si gustano nell'amore universale, cioè nell'interscambio di amore che tutti gli esseri si comunicano nella dimensione, chiamiamola così, della vita beata. E abbiamo concluso la puntata scorsa parlando addirittura di atomi, quindi le compenetrazioni addirittura cellulari, no? Non è, rileggo qualcosa, no? Non è la stessa cosa il livello di organismo totale del cane o il livello cellulare di questo animale. La compenetrazione col tuo cane lo farai a livello del suo organismo integro, ma potresti anche interpenetrarlo a livello di atomi. Ecco, ma allora la felicità la riceverebbero i suoi atomi e non il cane in quanto organismo intero. Quindi, e abbiamo proprio concluso, vedete, rendendoci conto che anche gli atomi si possono interpenetrare. Quindi aveva concluso Terra Amata con l'esempio di una goccia d'acqua e dice che potremmo rendere felice una goccia d'acqua. E quando Riccardo dice: ma come faccio a rendere felice una goccia d'acqua? Lei ha spiegato, e abbiamo chiuso così: gli atomi di quella molecola brilleranno intensamente di amore, brilleranno di gioia, mentre noi assaporeremo i doni singolari e irripetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi. Ecco che vedete che in questa dimensione veniamo a sapere che anche la chimica, oltre che la fisica, ha un ruolo non indifferente, e non soltanto in questo mondo, ma anche nell'altro. Tutto quello che si è inventato nostro Signore veramente è qualcosa di impressionante. Se voi pensate, cioè, credo che dicevo anche la volta scorsa, come adesso rimpiango di non aver a suo tempo approfondito alcune cose perché maggiori conoscenze della chimica e della fisica certamente darebbero una comprensione maggiore di questo testo. Questo non c'è dubbio, 100%. Infatti ogni tanto scrivo qualche commento nei video di YouTube, qualche persona che capisco, insomma, che ci mastica un po' con la fisica, con la matematica o con la chimica, sono commenti molto belli, molto molto pertinenti, cioè perché certe conoscenze, quando si scende a questi livelli, quando si sale meglio a questi livelli, certamente aiutano a comprendere meglio. Allora, assaporeremo i doni singolari e ripetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi. La volta scorsa abbiamo messo punto. Riccardo dice: esploderanno di gioia, no? E forse anche noi insieme. E Tenera Amata risponde: esploderanno di giubilo, ma non si annienteranno, perché ciò che il nostro Dio ha creato nessuno può ridurlo al nulla. L'annientamento, attenzione bene a quello che l'annientamento di qualunque essere è cosa impossibile, perché nessuno può annientare un altro essere e Dio non lo farà mai l'annientamento di un essere, perché Dio non rinnega se stesso. Se ha dato l'essere a qualcosa o a qualcuno, punto. Molte persone un pochino grossolane, superficiali, dice: ma perché Dio non ha distrutto il demonio? distrutto il demonio. Ma Dio questo non lo farà mai. Non lo farà mai, perché l'essere del demonio, capite, questi sono discorsi un pochino delicati, l'essere del demonio, quindi in quanto essere, cioè in quanto creato da Dio, i trascendentali dell'essere di cui abbiamo già parlato diverse volte, no? Ogni ente in quanto ente è uno, è vero, è buono, è pure bello ed è eterno. Ora, dice, il demonio adesso è un mostro. Un mostro non è che è un mostro, è diventato un mostro dopo quello che ha fatto. Anche le anime dannate diventeranno dei mostri, ma ci diventano dei mostri, non sono dei mostri, ma è molto differente. Quindi gli esseri non si annientano. Ecco perché l'inferno è eterno, per forza che è eterno. Se uno sta in uno stato di volontà depravata e irreformabile, quindi depravata è e depravata resterà perché non può cambiare orizzonte, dal momento che gli esseri vivono senza fine, una volta che ci sono, è per forza che l'inferno è eterno. Perché in quei soggetti che hanno la volontà depravata, la volontà rimarrà sempre depravata. Ma siccome non finiranno mai di esistere, l'inferno è eterno. Finito. Non è tanto difficile se uno si sintonizza sulle giuste coordinate, no? Dice, ma Dio può permettere che è buono che l'inferno sia eterno. Dio da parte sua non c'è assolutamente niente di cui rimproverarsi. Dio ha dato l'essere perfetto, bello, buono, vero, a quell'ente particolare, gli ha dato tutti gli aiuti possibili e immaginabili, senza mai forzare la sua libertà perché potesse avere una vita felicissima, sia quella del tempo della prova che quello del tempo del post-prova. Non ha voluto, ma questa è una cosa che non è più un suo problema, no? Non è un suo problema, è un nostro problema. Poi voglia bestemmiare. Si bestemmi pure come turchi o come altro, ma il problema siamo sempre noi, non è mai l'Altissimo. Proseguo la lettura. Dice, esploderanno di giubilo, ma non si annienteranno perché ciò che il nostro Dio ha creato nessuno può ridurlo a nulla. D'altronde, è molto piacevole situarsi dentro un'esplosione. Una grande esplosione nel cielo equivale ad un'immensa manifestazione di gioia e senza nessun pericolo. Qualcosa del genere si vede anche nella vita mortale. I botti e gli spari dell'ultima notte dell'anno sono in realtà un'espressione dell'istinto della gloria, anche se un po' deformata. Ora, io preferisco non fare troppi esempi perché per il pericolo che siano fraintesi, non li faccio. Ne ha fatto uno adesso Teneramata. Questo ci consente di vedere anche alcune cose che non funzionano da parte di noi mortali, però con una prospettiva allargata, cioè non funzionano, ma nel loro non funzionare sono comunque espressione di una sorta di istinto che l'anima ha di ciò che l'aspetta nella gloria, soltanto che qui giù è deformato ed è peccaminoso. Quindi si affretta subito a dire, perché, Teneramata ha detto si possono fare i botti. No, non ha detto si possono fare i botti. Ha detto che in questa manifestazione, un po' particolare e certamente non raccomandabile, c'è però questo istinto della gloria futura. Perché, dice lei, in paradiso, le esplosioni sono delle cose gradevolissime, grandi manifestazioni di gioia, ma non pericolose. Qui invece, essendo pericolose, perché ti salta una mano perché hai lanciato un petardo a Capodanno, insomma, non mi sembra una cosa, un rischio che valga la pena correre, quindi qui è meglio starne alla larga. Vedete, proseguo la lettura, no? Con quanta ragione fisico-chimica e celeste Nostro Signore Gesù Cristo disse la Domenica delle Palme nel suo ingresso trionfale in Gerusalemme, questo lo vedremo tra poco, tra un paio di domeniche. Vi dico che se questi tacessero, si riferiva alla folla dei piccoli che lo osannava, griderebbero le pietre. Chi se lo andava a immaginare? Attenzione che Gesù, anche se vissuto 2000 anni fa, questo non c'è bisogno di dirlo, spero, a meno che non ci sia qualche eretico. Perché c'è qualcuno che dice che Gesù, sì, nella sua umanità era però soggetto ai tempi. Io ho sentito dire queste corbellerie con le orecchie mie. Lo sapete, no? Che gli esegeti eretico-modernisti hanno praticamente distrutto tutta quanta la Bibbia. Una delle cose che si sono inventati è che, per esempio, Giona non è mai esistito. Ovviamente, come non è esistito Abramo, non esiste. Lasciamo perdere che non ci prendiamo per storto la catechesi di tenere la mano, no? Soltanto che durante una lezione di cristologia in un posto X, ma era, ahimè, un'università pontificia, uno studente dice: ma come Giona non è esistito? Ma Gesù ne parla 2 volte nei Vangeli. Dice che questa generazione non sarà data altro segno che il segno di Giona. Sia per dire come Giona fu un segno per gli animanti di Ninive, perché alla sua predicazione si convertirono, molto di più lo sono io. Dice: no, ma poi un'altra cosa, come Giona restò 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà nel ventre della terra prima della sua risurrezione. Dice: scusa, se il nostro Signore Gesù Cristo lo nomina, come fai a dire che non è esistito? Sapete la risposta, no? Eh no, ma Gesù Cristo era figlio del suo tempo. A quei tempi tutti pensavano che Giona era esistito e pensavo quindi la stessa cosa che Gesù Cristo. Ditemi voi se un ragionamento di questo genere è accettabile. Ah, ma Gesù Cristo non è mica amico pallino, capite? Cioè, è vero che c'è un'umanità come la nostra, ma quell'umanità è l'unità della persona del Verbo. Cioè, Gesù Cristo non ha fatto sfoggio, ma se avesse voluto divertirsi un po', cioè, lasciare tutti a bocca aperta, gli aveva pure proposto il diavolo: da buttare dal tempio e facciamo un po' di show, fagli vedere chi sei. Non l'ha mai fatto, perché non è proprio di Dio fare questi inutili e gratuiti sfoggi di potenza. Ma guardate che se Gesù avesse voluto, cominciava a parlare tranquillamente di fisica e di chimica, in termini come li conosciamo oggi. Spero che nessuno dubiti di questo, ma Gesù Cristo è la seconda persona dell'Altissima Trinità, ha fatto l'universo, l'ha fatte lui, tutte quante le sostanze. Magari non ci abbiamo mai pensato che la frase di Gesù non era da intendere semplicemente in maniera, come dire, sì, religioso iperbolica, no? Se questi taceranno, grideranno le pietre. No, no, Gesù dice, faceva riferimento. Aveva ragioni fisico-chimiche celesti per dire questo. E me lo spiega. Infatti sarebbe bastato che i raggruppamenti di atomi nel loro livello esistenziale in quanto pietre, spiega Teneramata, conoscessero al loro modo materiale la presenza così vicina del loro creatore, sentite, perché prorompessero in lodi e manifestassero a modo loro il giubilo con le loro proprie voci, luce, calore, suono, esplosione, fusione e fissione. Chiaro? Dice Riccardo: Teneramata, ma come potrò entrare in una molecola d'acqua? Se si trattasse di un mammifero o di un arbusto potrebbe essere, ma ti rifiuti di crederlo, dice Teneramata. Scusate, perché purtroppo questo è tempo di allergia, poi ovviamente non c'è stato niente tutto il giorno e evidentemente comincia adesso, no? Questo ormai è ordinaria amministrazione. Vabbè, ti rifiuti a crederlo perché ti senti scatolato, risponde, nella tua attuale statura. Quindi, se io sono alto 1,75 m, come faccio a mettermi dentro una molecola d'acqua per interpenetrarla? E lei risponde: ti suggestionano le dimensioni quasi invariabili del tuo attuale involucro corporale, Ma non sempre è stato così. Vedete, qui già chi ha capito bene, prima ancora che te ne eravate a rispondere, dice: e che problema c'è? Me ne vado nello spazio-tempo di quando ero uno zigote, hai voglia interplanetarti con le molecole d'acqua, o no? Adesso dirà sicuramente così. Non ho ancora letto il seguito, no? Però già l'imbeccata che gli ha dato, tu ti senti, come dire, imprigionato nel tuo tale involucro, se capisci subito dove va a parà, no? Nessuno di noi si ricorda com'era quando era uno zigote. Adesso però non te lo ricordi. Ma lo zigote, come la dottrina più comune e più probabile insegna, e anche se non è un dogma di fede, è comunque la dottrina più comune e da ritenere come buona, l'anima viene creata nel momento stesso in cui i due gameti diventano uno zigote. Allora, Teneramate vi dice: tanti anni fa misuravi la quinta parte di 1 mm, che era il diametro della tua cellula uovo. La quinta parte di 1 mm, sapete quanto è piccolo il millimetro, no? Nel cielo vedrai che la statura del corpo umano glorificato può variare da infinitamente piccolo a immenso. Non te ne sei accorto dell'impulso dell'istinto della gloria futuro che c'è nella gioia di un bambino quando sta sui trampoli per sentirsi più alto? Attenzione, un'altra volta. L'impulso della gloria futura. Sapete che ci sarebbe da divertirsi se fossimo un pochino attenti? Guardati un pochino in giro intorno, decodifica i comportamenti alla luce di questo. Non è che dietro quel comportamento c'è un istinto della gloria futura. Sono tentato di fare alcuni esempi, ma non li farò, eh. È il desiderio incosciente, questo ragazzino, della futura grandezza fisica che intravede l'anima nonostante le limitazioni del bambino. Qui capite come l'anima anche, per esempio, che l'anima, cioè, sono io. È difficile definire bene, però l'anima è più grande di me. Ci sono un sacco di cose che la mia anima fa, è che io, in quanto essere cosciente, poi sapete, noi siamo anche un po' misteri a noi stessi. Perché me l'ha detto Teneramata, mi ci ha fatto riflettere. Perché qualcuno di voi aveva mai riflettuto che quando corro e mi si alza il battito cardiaco, questa è un'operazione presieduta dall'anima? Andatela a chiedere a quegli sciocchi degli scientisti con l'H di adesso che cominciano che spiegano tutto col caso, con i circuiti e con i meccanismi, no? O ci sarebbe mai venuto in mente che i botti di Capodanno sono un istinto della, sono un preistinto, sono un istinto della gloria futura. Siccome in paradiso le esplosioni saranno godimenti immensi, sento questa attrazione verso il botto come strumento di espressione di una gioia. E guardate che tutti quelli che fanno i botti non gli passa manco per l'anticamera del cervello, una cosa del genere, sicuramente, d'accordo? Sicuro. Quindi molte cose che noi non sappiamo e che le facciamo mossi da questo istinto. Perché la nostra anima le sa queste cose, è stata fatta per il cielo, viene dal cielo ed è stata fatta per il cielo. Quindi questo desiderio cosciente della futura grandezza fisica. Allora la Teneramata continua: sarebbe bene dunque che cominci a considerare che il tuo organismo sarà capace di crescere enormemente in cielo. Possiamo diventare dei piccoli giganti o di farsi molto piccolo, ma senza bisogno di trampoline e di compressori. Ogni tanto Teneramata fa un po' ridere, eh? Ci riuscirai col tuo proprio potere di glorificata. Amici, abbiamo i superpoteri. Non è un modo di dire, è un modo di scherzare, perché partecipiamo a dei poteri divini. I glorificati sono dei piccoli dei. E così vedrai che in cielo noi glorificati condividiamo i doni e i poteri che ci ha dato il nostro Dio. È la piena realizzazione dell'amore di carità nella comunione dei santi. Allora Riccardo obietta: mi dispiace non aver partecipato con te a queste meravigliose avventure. E tenera madre dice: e perché no? Certo che prenderai parte alle mie esperienze celesti, così come tu mi inviterai alle tue. E sentite l'obiezione di Riccardo e poi la risposta che gli ammolla tenera amata, dice: ma come? Ma le tue avventure sono già accadute, me le stai raccontando? E tenera amata fa: aia, che cattiva memoria che hai. Le nozioni del passato, presente e futuro sono per la terra, non occorrono nel cielo. Hai già dimenticato la quinta dimensione eternità creata. Le mie avventure sono accadute in spazi, tempi della vita celeste. State attenti, eh? E in questi spazi, tempi si conservano archiviate, pronte per essere ripetute e perfezionate quante volte vorremo. E Riccardo gli scappa: fantastico. È certo che è fantastico. State capendo quello che gli sta dicendo? Perché guardate che bisogna stare attenti qui, eh? Cioè, lei gli sta raccontando un pochino di cose, un po' di avventure vissute. Dice: mi sarebbe piaciuto venirci anche a me. Dice: è certo che ci verrai. Dice: ma come faccio a venirci? Cioè, tu me le racconti come cose che hai già vissuto? E lei dice: ah, allora tutto quello che stiamo facendo insieme ha capito niente ancora. L'incedere dell'istante attuale, regolato dal ritmo dell'orologio, è proprio di questa dimensione della vita terrena, non è proprio dell'eternità creata. Perché l'eternità creata, che si chiama appunto creata perché non è quella della Santissima Trinità, che è eterna, ma è comunque eternità, nell'eternità non c'è il passato, il presente e il futuro, c'è solo il presente. Più di qualche autore ha detto: Dio è l'eterno presente. Vive l'eterno presente, ma non è che più di qualche autore, l'ha detto lui. Quando si è presentato, perché Dio si è presentato, Dio, eh. Mosè gli ha detto: senti, ma come ti chiami? What's your name? E ha detto: my name is, io sono colui che sono. Che cosa significa? Io sono l'eterno presente, sicuramente anche questo. Riccardo esclama: fantastico. E tenera amata dice: il nostro Dio era incantato della mia felicità e mi fece comprendere che la ricetta migliore perché un essere intelligente sia felice consiste nel rendere felici gli altri, ma al modo cristiano. E con questo ci facciamo al capitolo 30. Vorrei farti vedere, disse tenera amata, la forza con cui si radicano le cattive abitudini terrene e quindi la convenienza di condurre una vita di austerità cristiana. Siamo ancora in Quaresima. E il beneficio che comporta il mortificante e misericordioso purgatorio dopo la buona morte. Dice Riccardo: è terribile la giustizia divina. Ma no, risponde tenera amata, essa è colma di misericordia. Terribile è il peccato personale e lo scandalo che contagia e accresce il peccato del mondo. Quanti scandali adesso, oggi, Terribile è il cumulo di peccati di altri occulti causati dal cattivo esempio delle nostre proprie mancanze morali. E più terribile ancora è l'indifferenza dell'uomo dinanzi all'immenso amore con cui lo ama il nostro Dio. Queste sono le cose veramente terribili. E io sono perfettamente d'accordo con te, Ramata. La più terribile è indubbiamente la terza. L'indifferenza dell'uomo dinanzi all'immenso amore con cui lo ama il nostro Dio. Parentesi divina volontà, tante volte chi segue, chi vuole conoscere, chi vuole approfondire la divina volontà si sarà proprio imbattuto, io non l'ho detto talmente tante volte che ho perso il conto, nel fatto che cos'è la vita? Nella divina volontà. Oh, la vita nella divina volontà è stare sotto una pioggia battente, ininterrotta, continua, continuata, sempre nuova, di cosa? Di amore. E amore beatificante, beatificante, quindi che ti rende la vita meravigliosa fin da questa terra. Ecco perché si dice, no, che vivere nella divina volontà come in cielo, così in terra, e che la vita nella divina volontà è un ripristino dell'Eden, è un recuperare il paradiso perduto. Questo è. Prosegue Teneramata, d'altronde non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia. Adesso attenzione a questo passaggio, perché specialmente di questi tempi, che rende giustizia e ammonisce dai distorti concetti di misericordia o dalle immagini di quel Dio bonaccione, che sono immagini che servono soltanto a popolare ancora di più di quanto già è sovrappopolato l'inferno. Cominciamo subito a evidenziare: non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia. Soddisfatto la divina giustizia. Ci sono i termini. Cosa diceva Padre Pio quando qualcuno la combinava grossa? Andate a leggere quelle poche cose, quegli aneddoti, perché Padre Pio non ha lasciato opere compiute, non ha scritto opere, ma sappiamo, io per esempio per tanti anni ho scritto in una rivista che si chiama Il Settimanale di Padre Pio, non è un mistero, lo sanno tutti, ecco. E lì, siccome chi ha fondato quella rivista è stato, ha conosciuto Padre Pio e l'entourage di Padre Pio e anche altri sacerdoti che hanno avuto a che fare con lui, loro hanno raccolto tutta quanta una montagna di aforismi, di aneddoti, reali però, risalenti al Padre Pio storico. Quindi l'hanno sentite, gli esegeti oggi le chiamano l'ipsissima verba di Gesù, quindi proprio le riferiscono le stesse parole. Quando qualcuno gliela diceva grossa in confessionale, dice: ah, la paghi cara! La paghi cara non vuol dire necessariamente che non c'è la soluzione. La soluzione c'è, ma la soluzione è rimettere la colpa, amici cari. Non rimette i debiti con la divina giustizia. Che significa questo discorso? Non te lo dico io che significa. Basta che uno studia bene l'atto di dolore. L'atto di dolore non va mancato come fanno adesso. Sapete quanta gente: mio Dio, mi pente e mi tolgo tutto il cuore dei miei peccati perché peccando ho offeso te. C'è subito il jumping, io lo chiamo, no? Ho meritato i tuoi castighi, dove sta? Qualcuno dice che questa cosa bisogna toglierla. Che meritato i castighi? Ma che cos'è questa roba qua? Vi assicuro che più di qualcuno pensa questo. I peccati meritano i castighi, cioè la divina giustizia deve essere soddisfatta, deve essere. Ok? In questa terra i castighi hanno più scopo medicinale che retributivo, cioè hanno lo scopo di favorire la conversione. l'emenda del colpevole. Io ricordo quando studiavo diritto penale, c'avevo un professore che era terribile, alla Sapienza di Roma. C'erano le due grandi teorie, dice, perché la comunità, la collettività, voi sapete, per i reati commessi viene comminata una pena in nome del popolo italiano. Dice, quella pena, perché una persona ha ucciso una persona, codice penale che se non ricordo a memoria, deve essere condannato alla reclusione per non meno di 26 anni, omicidio volontario. C'è scritto proprio nel codice penale. Questi 26 anni di galera, perché vengono comminati? Per soddisfare la giustizia, cioè hai fatto una cosa brutta. La giusta pena per questa cosa qui, cioè la soddisfazione che tu devi dare, come espiazione della colpa, la devi pagare. Sono 26 anni di galera. Oppure, sti 26 anni di galera se servono a fate fa. Pensi, capito? Quindi pensi. Non è soltanto un'espiazione, è un'espiazione, è un pensiero, in modo tale che quando esci da questa sosta ti guarderai bene da fare un altro di omicidio. Quindi, la pena come strumento per il recupero del colpevole. Ora, i castighi terreni, a quanto pare, sono fondamentalmente finalizzati alla conversione. Si legge la lettera agli ebrei: è per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli e non come bastardi. Questo è il termine greco originale, anche se poi è edulcorata anche nella nuova traduzione CEI, dice se come illegittimi. No, il termine greco è bastardo. Ok? Brutale. Quale figlio non è corretto dal padre? Ora, un padre corregge un figlio per aiutarlo a correggersi, appunto, la correzione. Quindi il castigo correzione, quindi il castigo emendativo. Oh, ma nell'altra parte, sia che si va in purgatorio, sia che si va all'inferno, quelli non sono castighi emendativi. Quelli sono castighi retributivi. Retribuzione, la soddisfazione della divina giustizia. Oh, ma tra poco noi contempleremo Gesù Cristo sofferente in croce, ma perché ha sofferto tutte quelle cose? Certo, uno mi dirà, Santa Teresa diceva che bastava una goccia del sangue di Cristo, ma certo che bastava una goccia del sangue di Cristo, perché? Per la dignità di colui che lo offre, cioè, chi perde quella goccia di sangue è il figlio di Dio. Per cui il valore di una goccia di sangue versata dal figlio di Dio vale più di tutto quanto l'universo creato in se stessa. Però, c'è un però, che i peccati erano commessi gli uomini e che lui è vero uomo e che è il Redentore universale. Quindi, come disse a suo tempo il profeta Isaia, e lo sentiremo il Venerdì Santo e anche la Domenica delle Palme, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Questo per quelli che dicono che non esistono i castighi. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo. Si canta nel preconio la notte di Pasqua. Pagato. La redenzione in greco, apoliutrosis, significa riscatto. Cioè, tu devi sborsare il prezzo del riscatto. C'è una persona che è stata sequestrata. Perché quella persona venga rilasciata, devi pagare il riscatto. Il riscatto con cui, cioè il prezzo del riscatto che Gesù ha pagato al Padre per noi è tutto quello che contempleremo da domenica prossima, che comincia il tempo di passione, anche se oggi non si chiama più così, fino a Pasqua. Capito? E noi ci metteremo la nostra parte in quello, perché, come ho detto infinite volte, però ripeto, ogni tanto mi arrivano le mail dove mi fanno domande, dico sì, capisco che uno non è che possa sentire tutto quello che dico, ma a volte mi fanno delle domande su una cosa che ho già detto in uno, in due, in tre, in quattro, in cinque interventi, no? Quindi risponde sulla mail, dico guarda che l'ho già detto tante volte, dico, mo te lo ridico per mail, dico, però ecco. La giustizia esiste, la giustizia divina, non è una invenzione e non dobbiamo avere paura di parlarne. È colma di misericordia, perché... Ma esiste. Allora, il prezzo pagato da Gesù per noi ci viene attribuito una sola volta in toto, cioè vuol dire che facciamo piazza pulita, tu paghi tutti i debiti e ti vengono cancellati tutti i peccati. C'è un sacramento. Che è per questo che si amministra una volta. Ma vi siete mai chiesti perché professo un solo battesimo per il perdono? Perché si amministra una volta sola il battesimo? E guai a chi dice che si possono fare due battesimi, eh? Non soltanto perché imprime il carattere, i sacramenti che imprimono il cosiddetto carattere, quindi il battesimo, la cresima e l'ordine sacro, non si possono ripetere, vabbè, ma anche perché è impossibile fare due battesimi perché per la stessa persona non ci sono due lavacri full, completi. Uno ce n'è, perché Gesù Cristo in croce si è morto una volta sola. E quindi, per giustizia, la partecipazione a questi infiniti meriti una sola volta la puoi avere. Ecco perché il battesimo è uno. Dice, ma se ho peccato dopo c'è un altro sacramento, che è la penitenza. E qual è la differenza? Dice, ma anche la penitenza serve a rimettere i peccati. Sì, i peccati attuali, non quello originale, ma il battesimo rimette anche i peccati attuali. Se uno viene battezzato a 30 anni, voi pensate che quando una persona viene battezzata a 30 anni, che fa? Sì, siccome il battesimo leva il peccato originale, perché dopo il battesimo si fa anche la comunione, no? La cresima, che fai? Allora, sì, allora, siccome il battesimo era il peccato originale, però ti devi confessare prima di essere battezzato, perché tutti quegli altri che hai fatti, no, non ti devi confessare, non c'è confessione, c'è piazza pulita di tutto. Se tu invece c'è il sacramento della penitenza, che viene dopo il battesimo, oggi fa ridere le galline, perdonatemi il termine. Ma tu vai a vivere il sacramento della penitenza, ce l'ho fatta le catechesi negli anni passati, quando il sacramento della penitenza era sacramento della penitenza amministrato dal vescovo, con il coinvolgimento della comunità cristiana, tutti quelli che si sciacquano la bocca con la comunità, la comunità. Andate a vedere com'erano i rituali. La prima domenica di Quaresima, davanti a tutti, i peccatori venivano rivestiti dell'animo della penitenza. Dopo dicevano: adesso voi dovete uscire fuori, fate penitenza e quando l'avrete fatta rientrate dentro. Immaginate oggi, ma cacciato! Ma orrore! E qui bisogna accogliere tutti. Andate a leggere le testimonianze, tutti i super modernisti che stanno sempre ad osannare la Chiesa antica, perché poi è venuto l'orribile Concilio di Trento che ha oscurato la Chiesa. Andate a vedere, vogliamo rifare anche questo? O vogliamo soltanto rimettere la comunione in mano perché San Cirillo di Gerusalemme dice a metti le mani a forma di trono, poi bisogna vedere come, vabbè, facciamolo tutto, facciamolo, no? Ripristiniamo la penitenza com'era nel V secolo. Poi vediamo se non ti passa la voglia di fare peccati. Ti passa proprio la voglia di fare peccati, eh? Perché prima che ti becchi la soluzione, vai a vedere le penitenze che davano. Io ci ho fatto qualche ciclo di catechesi quando ero un po' più cattivello e qualche numero l'ho dato. Poi ho dovuto moderarmi un po' perché la gente si sente male. Ma i numeri sono quelli, sono. Allora, non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia. L'Altissimo ci ama infinitamente. Questo non è in discussione. Ma rettamente. Mai si comporta come un compare pacioccone, che chiude un occhio a certe cose. Sapete quante volte noi poveri preti, quando le cose si possono fare, ma dai padre, ma chiuda un occhio, non sia troppo rigido. No, in cielo non tollera la più piccola macchia o vestigio di peccato, non si entra in cielo. Neanche con una minima imperfezione non espiata, non si va in cielo. Sia di commissione, piccola macchia o vestigio di peccato, sia di commissione che di omissione, perché è del tutto incompatibile con la purezza divina. Pensate a certi funerali o altre espressioni, l'ho detto infinite volte, che mi fanno venire i nervi tranquilli. Cioè, non voglio andare a fare i peccati di ira, però mi vengono i nervi tranquilli. Dice, mio padre è volato in cielo. Urca, è volato in cielo. Ma volato in cielo veramente l'hanno scritto della morte della sorella di San Benedetto, che veramente quando è morta hanno visto la sua anima che schizzava e volava verso il cielo. Ma quella era una santa però. Volare verso il cielo è espressione che si usa per un santo, pubblicamente acclamato come tale a furor di popolo. Oppure, mi raccomando, a sto funerale non facciamo canti mortori, perché il funerale è una festa, perché questo è entrato in paradiso e quindi non ammorbamolo con i canti mortori. Ma davvero? E chi te l'ha detto che è entrato in paradiso? Scusa, che c'è? Filo diretto col Padre Eterno? O giudizio particolare, c'è avuto una delega, l'hai fatto tu? Poi la gente sente queste cose, perché questa è la colpa, che certamente la colpa principale è la nostra, e poi per forza che si forma delle idee completamente strampalate. Ora, non si tratta, proseguo la lettura, di capricci dell'Altissimo. L'uomo glorificato si trova in un rapporto interpersonale libero con il Signore, sarebbe dunque un ostacolo anche la più piccola particella di male morale. Non ci può stare. Da ciò la necessità della purificazione dopo la buona morte. E se l'uomo non è stato un perfetto cristiano in questa vita, ho la necessità di imparare il buon comportamento proprio della patria, che qui era le virtù cristiane. Non hai imparato a comportarti decentemente in questo mondo, e ti impari in purgatorio. Se no in paradiso non ci entri. Riccardo dice, è molto duro tutto questo. E Tenera Amata risponde, no. Quello che succede è che sei molto tollerante, dimmi un po', ma provate a pensarci anche voi, perché molte volte io detesto, stasera non sto Mi sto confessando un po', quindi detesto i discorsi qualunquisti a frasi fatte detestabili proprio. Perché se noi evitassimo di fare questi discorsi sciocchi e cercassimo di riflettere un po', ci eviteremmo di dire e pensare troppe stupidaggini. Che cosa dice Tenera Amata per far capire questa cosa a Riccardo? Quello che succede è che sei molto tollerante. Ti piacerebbe forse che i tuoi parenti e amici conservassero nella gloria eterna del cielo i loro difetti, i cattivi abiti, impurità, impietà, modi mondani? Vi è mai capitato, ma credo che ci capiti tutti i giorni, sicuramente capiterà anche chi sta a contatto con me, certo per certo, di dire sì, questa è una bella persona, però purtroppo c'è questo difetto, c'è quest'altro difetto. Quando appare un nostro difetto, si manifesta, diventiamo più brutti. La nostra presenza non è più così tanto gradevole e piacevole. È così perché il difetto è una cosa brutta. Brutta. Un cuore, cioè, io quando vedo, che ne so, qualche difetto nelle persone che, con cui sono a contatto, che si vede, che, cioè io lo vedo proprio come la persona diventa brutta. Siccome un sacerdote è capace, spero, di vedere anche la bellezza profonda delle persone, dice, ma tu guarda che peccato. Cioè, quando si fa prendere da questo difetto, guarda che brutta che diventa sta persona. Cioè, si vede proprio con gli occhi. Ma ti pare che questa cosa... Cioè, se fosse una cosa in paradiso di questo genere, ma come fa a esistere la beatitudine imperturbabile? Se quella persona manifesta quel difetto, farà star male il prossimo. Perché scoccia, disturba, rompe. O no? Le persone a cui vogliamo bene in paradiso sono soltanto belle. E senza difetti. Se no che ce n'è a fare in paradiso. Oh, è chiaro che il nostro Dio, aggiunge subito, ha perdonato loro tutta quanta la colpa e gli ha rimesso la pena eterna, che insomma non è poco, essendo morti in stato di grazia. Ma alcuni di essi conservano la radice delle cattive abitudini che non sono riusciti a vincere nella vita mortale. Ecco perché sarebbe tanto importante che noi tante cose riuscissimo a spaccarle, a liberarcene ora. Perché se non te ne liberi ora, poi dovrai soffrire in purgatorio. Ogni tanto mi scappa, dico. Figlio mio, figlia mia, tanto purgatorio che te farai se non la pianti. Mi dispiace, cioè, mi scappa proprio perché la verità. Perché, cioè, dov'hai? Ma me lo dico pure a me, me lo dico per tante questioni, che capite? Dico, falla finita, perché sennò voglia purgatorio, giudizio universale. Allora, alcuni di essi conservano la radice delle cattive abitudini che non sono riusciti a vincere nella vita mortale, la zavorra dei danni ingiusti che non fecero in tempo a riparare e che ancora non sono restaurati negli spazi-tempi del passato. E quindi sono conservati nella quinta dimensione. Tutti i danni che abbiamo fatto nella vita, o li ripariamo adesso, questo sta dicendo Tenera Amata, oppure durante il purgatorio, negli spazi-tempi della quinta dimensione, per esempio, abbiamo offeso qualcuno, andiamo a chiedere perdono. Gliel'abbiamo fatta una grossa quanto una casa. E andiamo a chiedere perdono. Meglio che lo fai adesso. Perché se lo fai adesso c'è anche il merito dell'umiliazione, quindi di aver praticato l'umiltà, di esserti annientato, di aver rinnegato te stesso. Non lo fai adesso, lo farai. Finita la vita terrena, cioè. Tu in purgatorio dici, ma Dio rispetta la libertà. Certo, la libertà ce la dà fino a quando non finisce la vita terrena. Dopodiché, stop. Perché in purgatorio tu c'è stai punto e basta. Se finisci dannato, tu gli resti punto e basta. Dici, no, io sono libero, me ne esco dal purgatorio. Ma prova. Ci riesci? Prova. Ah, io sono libero, me ne esco dall'inferno. Prova. L'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'Altissimo verso di loro. E questo, guardate, l'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'Altissimo verso di loro. Trascuratezza religiosa. Io ho una pena, lo dico pubblicamente, lo dico, e se qualcuno lo sente dai miei parrocchiani, magari la trascuratezza religiosa che io vedo in giro, spaventosa. Cioè, non è la che si sai. È meglio vedere, cioè, capitemi, no? Era meglio vedere gli atei comunisti, quelli che ti vogliono morto, quelli che ti combattono. O gli illuministi amici di Voltaire e di Robespierre. O i massoni. Ma vedere proprio, cioè, non me ne proprio, cioè, non è proprio, non ci penso proprio. Non me proprio lambisce. Il pensiero zero. E dice, ma io non lo sapevo che Dio mi vuole così tanto bene. Dico, è fighetto, bello. E se non vai al funerale manco di un familiare, cioè se manco là ti ricordi di mettere in piedi in chiesa, ma come fai a scoprire l'amore di Dio? È una cosa gravissima questa qui, l'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'Altissimo verso di loro. Non scoprire l'amore dell'Altissimo verso di noi è colpa, perché l'amore dell'Altissimo verso di noi c'è. E la mancanza di corrispondenza adeguata a quell'amore supremo. Voglio vedere quanti. Io sono sacerdote, quindi confesso. Si vanno a confessare come prima cosa. Il primo comandamento, io me lo sono messo sotto i piedi. Cioè io dovrei amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Ma non l'ho proprio calcolato. Altro che amarlo con tutto il cuore. Zero! E la prima cosa che noi dovremmo sempre farci l'esame di coscienza, se abbiamo avuto la grazia di vivere fondamentalmente in grazia e di più o meno camminare bene, tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze. È il primo comandamento. Dio lo vuole che sia osservato. L'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'Altissimo verso di loro e la mancanza di corrispondenza adeguata a quell'amore supremo. E nessuno può dire che non lo so. Io faccio sempre le prediche durante la settimana santa, il venerdì santo, dico sempre le stesse cose. Dico, ma che? Ma dice, non lo sapevo quanto mi ama nostro Signore. Dico, senti, aspetta, aspetta. Se tu mi parli di qualche foresta tropicale, non so che non, nella mia fantasia non conosco tutto il mondo, cioè di un posto dove il cristianesimo non è arrivato, non sanno manco che cos'è un crocifisso. Passi. Ma tu non hai mai visto un crocifisso? L'hai visto un crocifisso o no? E ti devi fare semplicemente due domande dinanzi al crocifisso. Chi è quello che sta in croce? Chi è? È il tuo Dio? In Italia quasi tutti quelli che si fanno questa domanda sono stati battezzati nel nome di quello che sta in croce. E la seconda è, ma perché è andato in croce? Perché? Sono domande che non possiamo non farci, perché non farceli è peccato. Se sentite quante prediche ho fatto su questi argomenti, è peccato. Non puoi venirmi a dire, ma io non lo conoscevo l'amore di Dio. Non lo conoscevi. Non lo conoscevi. Non hai mai visto il crocifisso in vita tua? Ma che fai? Ma non ci stavo a pensare. Non ci stavo a pensare. Noi diciamo una cosa, noi diciamo una cosa da fuori di testa, che il crocifisso è Dio. Quello che sta in croce è Dio. E che è andato lì per colpa tua. Per colpa tua. Immaginate la mentalità di oggi, nessuno si può sentire colpevole di nulla. Guai se ti azzardi a dire qualcosa che tu lo traumatizzi una persona. Cioè, la persona deve essere rispettata, deve essere trattata. Che fai? La fai sentire in colpa? Ci dobbiamo sentire in colpa come? Noi siamo responsabili della morte del figlio di Dio. Noi. Ma Quindi l'ignoranza del grande amore dell'Altissimo e la mancata corrispondenza adeguata a quell'amore supremo. Il primo comandamento. Di conseguenza, hanno bisogno di subire il giusto castigo per compensare i loro peccati, compensare ormai perdonati riguardo alla colpa e alla pena eterna. Hanno bisogno di rettificare la loro indifferenza terrena verso le cose del cielo e di trovare il proprio posto preciso nella patria. Hanno bisogno di imparare le abitudini celesti e di fare al modo dell'aldilà le restituzioni di ciò che hanno derubato. E questi non sono solo i soldi. Chi ruba l'onore, chi dice peste e corna di qualcuno dietro. Io su questo mi si perdoni la debolezza, ma ho certi conti aperti per tutto quello che è stato detto, pensato e divulgato del sottoscritto a ogni piè di porta. Io abbono tutto, già il Signore lo sa, ma a quanto pare il nostro Signore, nonostante gli abboni, voglia che certe cose siano riparate, per restituzione di ciò che hanno derubato. Non si può rubare a una persona l'onore, la buona fama, l'onorabilità, appunto, la stima, sulla base di sentiti dire o di prime impressioni, o di chiacchiere da piazza o da barra, no? Al riguardo sto chiamando un tuo amico di infanzia, Maurizio, che attualmente è un beato in cielo, perché parli con te. Però Maurizio lo conosceremo la settimana prossima, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto e quindi ci aggiorniamo, se Dio vuole, a venerdì prossimo, venerdì della settimana di Passione, tempo più santo dell'anno che vi auguro di vivere già da adesso con la massima intensità possibile. Bene, ci salutiamo pertanto e ci aggiorniamo. E che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.